Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Anche questa è una domenica di intervista, come avete visto di recente nei nostri social, che ovviamente vi invito anche a seguire magari per avere informazioni su quanto riguarda un po' le nuove uscite che puntualmente domenicalmente suona un po' strano, però chissà se esiste come termine, però in ogni domenica vado a proporvi e ultimamente le domeniche le sto usando principalmente per le interviste. In questa domenica c'è una band molto conosciuta per quanto mi riguarda nella scena ovviamente del punk rock italiano. È qui con me collegato su WhatsApp, non essendo un pelo old school rispetto magari a qualcun altro, però ha voluto precisare, ha detto preferiamo il discorso di WhatsApp, che così siamo intimi, per modo dire. Però qui con me c'è Chicco dell'ATPU, quindi ciao Chicco, come stai? Benvenuto. Ciao ragazzi, tutto bene, grazie, sono contento di essere qui con voi. Buona domenica. Fantastico, bene, vedo che tu sei a casa, bello, tranquillo, che così andiamo ovviamente, come ti dicevo, come dico spesso, l'ospite è qui con me principalmente perché sono usciti con il nuovo album, con i Lati Più, sono usciti con il nono album, se non erro, giusto? Se non ho fatto male i conti. Sì, dovrebbe essere il numero giusto, anche se anch'io sto cominciando a perdere qualche colpo, nel senso che a volte mi parlano di ottavo, di nono, di decimo, comunque dovrebbe essere il nono se non sbaglio. Bene, sì. Bene, quindi vabbè, lasciamo il dubbio, però tecnicamente dovrebbe essere il nono album dei Lati Più, World of Retarded, e quindi nono album uscito all'inizio di marzo, comunque sempre di quest'anno, quindi dopo andremo a parlare anche di questo. Prima però di andare a parlare effettivamente di quello che è i Lati Più in questo 2023 con il nuovo disco appena uscito, c'è una domanda che nessuno scappa. Io so che principalmente le vostre influenze sono principalmente sul Ramones come influenza massima Screeching Weasel, però sicuramente come tanti sapranno e sicuramente come anche tu saprai, il prossimo anno i NoFX si scioglieranno. Quindi è una domanda apertissima, ma vorrei sapere da te cosa sono un po' per te NoFX. Allora, sono stati e sono senz'altro una band importante per quanto riguarda almeno il mio background. Magari a livello di band noi non arriviamo proprio da lì, ma insomma, considera che li ascolto dal 1992. E non ho mai smesso, quindi ci sarà un perché, ecco, senz'altro una delle mie band preferite. Sì, bene, quindi immagino che anche a te ci sta il loro scioglimento, e quindi giustamente sono arrivati. Sì, tra le altre cose, ora che mi viene in mente, se riusciamo dovremo partecipare ad un tributo, una label americana sta organizzando appunto un tributo ai NoFX in uscita per il 2024, ci è stato chiesto di partecipare e quindi avremo già scelto il pezzo, dovremo vedere se rientriamo un pochino nei tempi, spero di riuscirci, ecco. Beh, questa in realtà è una grandissima chicca, perché io non so, cioè, ovviamente dai social o comunque da canali ufficiali non c'era già una notizia di questo tributo che sarebbe uscito? C'è già qualcosa in giro? Sì, anche se soprattutto magari è un qualcosa che ha riguardato soprattutto gli Stati Uniti, credo. Okay. Dove questa situazione forse è un po' più sentita, ma poi penso anche non sarà l'unico tributo a NoFX che uscirà il prossimo anno, credo. Cioè, insomma, sì. Molte situazioni pagheranno tributo in questo senso, tra etichette, band, penso di sì. Però a noi è piaciuta l'idea e poi insomma abbiamo visto abbastanza entusiasmo intorno al progetto, quindi abbiamo risposto di sì, sperando appunto di riuscire a registrare per tempo il pezzo. No, bello, bene, buona bella informazione che sinceramente non sapevo, però buono a sapersi. E rientriamo su Lestolmon Rock sempre con Chicco. Dopo il discorso lo finiamo dopo, che così se hai altre cose le teniamo solo per me e te, poi gli altri le scopriranno più avanti per il discorso del tributo. Ok. esatto, perché sai, le volte sono quelle cose che non si sa se puoi effettivamente dire o spoilerare fino a dove puoi spoilerare, no? Quindi io te lo chiedo, io sto zitto, non dico niente a nessuno e non ti preoccupare nel caso dovessi dire fuori cose che non potresti dire, però quindi va bene. Detto questo, nono album World of Resurrected, questo titolo molto diciamo accattivante, un po' con delle ironia comunque. World of Retarded in che senso? Nel senso che stiamo andando un po' rotoli, c'è cioè questo ritardo di questo mondo un po' su tanti fattori alla fine, che possa essere anche il discorso di social alle volte di questi, magari questa nuova generazione di ragazzi che stanno crescendo in un altro modo rispetto al nostro. Magari tu, ovviamente tu sei un po' anche più grande, un po' sei più grande di me, però bene o male il filone nostro è quello. Questo World of Retarded come titolo, cosa ci vuoi dire? Cosa ci dite? Sì, allora, hai colto abbastanza nel segno il significato che abbiamo voluto comunicare col titolo è quello lì. Diciamo che non è assolutamente offensivo nei confronti di nessuno, e questo perché soprattutto negli Stati Uniti abbiamo avuto qualche problema per via della parola retard nel titolo. Ci sono stati, diciamo, un po' di problemi a livello di distribuzione, insomma, un po' di situazioni che abbiamo dovuto precisare, ma poi, insomma, alla fine è andato tutto abbastanza bene. E il titolo è arrivato proprio perché, insomma, ci siamo resi conto che il mondo non è che stia andando in una bella direzione, soprattutto perché siamo abbastanza, cioè la parola ritardato è proprio per i nostri atteggiamenti, per come ci comportiamo e per come ormai basiamo la vita proprio verso queste situazioni con cui non ragioniamo più con la propria testa, ma ci adagiamo in quello che ci viene offerto, oppure ci allineiamo proprio per avere meno difficoltà o per fare meno fatica nella vita di tutti i giorni. Semplicemente questo. Poi vabbè, la title track è emblematica perché diciamo una sorta di come dire mondo ritardato, ne faccio parte io, ne fai parte tu, ne fanno parte loro, è una situazione un po' generalizzata. Non ci siamo risparmiati nemmeno noi in questo senso. No, beh, inclusivo, non è un discorso ritardato, sì, sì, voi, ma non sì, esatto. Sì. No, beh, certo. Ci sta. E quindi a sto punto, vabbè, a parte ovviamente sicuramente date tour che avete fatto magari di promozione o comunque state ancora facendo, avete delle altre date adesso in programma o già programmate che avete, così diamo pubblicità anche su quello, che magari se ce n'è qualcuna che è scappata. Allora, in realtà c'è da fare una precisazione, nel senso che World of Retarded è uscito a marzo e purtroppo ci sono stati dei problemi legati all'etichetta, perché Kenny, che è la persona che dirige la Pro Rock Records, la nostra etichetta americana, ha avuto qualche problema personale a livello di salute, per cui si è dovuto un po' fermare. E quindi l'album, diciamo, è passato un pochino in sordina in questo senso. Non ha avuto il percorso che avevamo organizzato, che speravamo avesse. E poi noi, una volta cominciato, diciamo, il tour di supporto, le date di promozione, purtroppo abbiamo avuto a nostra volta un problema in casa, perché il nostro batterista Puccio ha dovuto subire un intervento, quindi ci siamo dovuti fermare per un periodo. insomma, non è stato, diciamo, un'estate molto facile per quanto ci riguarda. Dovremmo ripartire ora, credo, anno nuovo, nel 2024, anno in cui spero riusciremo a fare anche delle date proprio a livello di promozione, anche se l'album non sarà più freschissimo, però comunque riuscire a portarlo un po' in giro sicuramente. Ok, ok, quindi stiamo in, in attenzione. Tanto auguri al, al batterista per questo intervento che ha avuto, ovviamente, che speriamo sia andato tutto bene, ovviamente, perché sai. Sì, sì, fortunatamente è andato tutto bene, anche se ci siamo spaventati un bel po', ecco. Ah, beh, certo, certo. Non è stato semplicissimo, no. Però è andato tutto bene. Non lo metto in dubbio. Intanto io vado a mettere un pezzo vostro, di quelli che mi hai detto. Io preferisco sempre far scegliere a chi intervisto quali pezzi vuole mettere, perché magari che sono quelli un po' più significativi o quelli preferiti effettivamente del nuovo disco. Quindi se hai qualcosa da dire prima di Such a Mess, che è uno dei pezzi che mi hai mandato, dimmelo pure e poi lancio il pezzo. Allora, questo non è un pezzo molto veloce, ma è uno dei miei pezzi preferiti del disco in assoluto. Mi è piaciuto molto come è uscito, proprio a livello di scrittura, mi è piaciuto registrarlo e mi piace molto suonarlo dal vivo. E è un pezzo a cui sono abbastanza legato, perché è anche un po' autobiografico, e dal vivo rende bene, quindi mi piace molto, ecco. Perfetto. Ed intanto stavamo parlando ovviamente un po' della situazione del batterista, che, come dicevo, è stato bello che siete riusciti a voler aspettare, perché come stavo dicendo per il discorso che magari qualche altra band capita che chiami un turnista per poter andare avanti, però quindi avete fatto bene per quanto mi riguarda. Sì, sì, no, ma appunto non ci abbiamo pensato nemmeno per un attimo. Non avremmo fatto nemmeno un pezzo senza di lui, nel senso che Puccio, vabbè, parte integrante della band da diversi anni ormai, quindi anche se, ecco, colgo l'occasione per ringraziare le persone che si sono fatte avanti in questo senso, amici e non amici, cioè conoscenti e non conoscenti, ragazzi, se avete bisogno di una mano, però ecco, abbiamo sempre detto di aspettare lui, qualsiasi fosse stato il tempo da aspettare, quindi. E ora sta tornando in forma, infatti siamo contenti, ecco. Bene, bene, bene, bene. Fa piacere che stia andando tutto bene o male, tutto abbastanza bene. E allora, io avevo una domanda che sinceramente non riesco a tirare sempre fuori, perché magari capita molto spesso che intervisto la band un po' più piccolina, che è da poco tempo che è in attività, quindi ha pochi i pezzi che hanno da suonare, bene o male sono quelli. Quindi, dato che voi siete dal 97 che esistete, quindi direi che la vostra discografia con 9 album e sicuramente qualche EP e split che avete fatto di mezzo è bella fornita. La mia domanda è questa, bene o male, molto semplice. Allora, a parte che sicuramente ci saranno dei pezzi che sono immancabili in scaletta, che sono quei pezzi che delle pietre miliari che i lati più hanno fatto e non potete non fare. Però alle volte, per tirare fuori una scaletta, per dire anche questo, in questo caso, quando ripartirete con il tour di promozione di World of Resetted, ci sarà qualcosa che dovrete lasciare da parte per poter poter suonare qualche pezzo nuovo. Quindi in quel caso lì andate a scegliere, in base un attimo agli ascolti di Spotify, parlando molto brutalmente su quello che avete fuori, che avete a che mano con i risultati che avete di ascolti su Spotify, oppure vedete un attimo da live come funziona, la data dopo modificate, come l'ha gestito un attimo la scaletta? No, allora, intanto comincio col dire che siamo una band abbastanza lontano dall'ambiente piattaforme digitali, streaming, roba varia, quindi ho scoperto solo ultimamente come poter vedere, visualizzare quanti ascolti hanno i nostri pezzi su Spotify. Tra l'altro non l'ho nemmeno mai utilizzato proprio come applicazione, perché non so nemmeno come funziona, francamente. Ok. Ovviamente con una discografia abbastanza ampia, fatta da 9-10 album, il materiale da diciamo tagliare fuori è molto, e fondamentalmente strutturiamo i set in base a come riusciamo a riproporre i pezzi, a quelli che ci piacciono di più proprio nel momento in cui le riproponiamo, ok? Anche se è vero che negli ultimi 10 anni hanno avuto molto poco spazio i pezzi dei primi album, e qui parliamo degli album usciti nei primi 2000, ecco, queste cose, e per dare spazio ovviamente un po' agli album più attuali, più recenti. È anche vero però che ultimamente stiamo valutando anche di reintegrare un po' di vecchi pezzi, insomma, rimettere in piedi anche vecchie canzoni che magari non facciamo da un bel po' di tempo, anche perché ci sono sempre quei pezzi che ci vengono richiesti in live e che spesso appunto non facciamo, e magari è arrivato il momento di rimetterli un po' nel set. Quindi, però ad esempio l'album nuovo è molto bello da suonare in live, ci sono tanti pezzi che mi piacciono proprio, che quando li facciamo, anche li proviamo anche in sala prove, sono belli, ecco. A differenza di altri album dove magari su 13-14 pezzi che li compongono ci sono quei 2-3 pezzi che rendono veramente bene, e gli altri magari stanno bene sull'album però non ti dicono tutto sul palco, ecco. Ok, quindi un po' vediamo un po' alla giornata, diciamo, per passami un attimo il termine. Sì, ma siamo molto liberi in questo senso, cioè se un pezzo ci piace e viene bello carico lo buttiamo dentro, non ci sono grossi problemi. Va bene, perfetto. Seconda parte di Lestromon Rock, sono sempre collegato qui con Chicco. Ricordami di chiamarti Chicco dei latte più 333-180-94-94 se aveste delle domande, o comunque ascoltate quelle che sto bene o male facendo io a lui. Dopo il discorso delle scalette c'è un'altra domanda che volevo farti, sempre un po' ritroso, come stavamo parlando del discorso del cambio di testo, non per tanto tematiche ma di lingua, perché ovviamente siete iniziati con l'italiano e in corso d'opera dal 2015 con, me lo sono scritto perché non me lo ricordavo, No More Than Three Chords, avete cambiato e da lì avete continuato questo in inglese. Quindi prima di tutto, come mai questo cambio di lingua dall'italiano all'inglese? Allora, in realtà la band nasce cantando in inglese, nel senso che quando ci formammo scrivemmo per 2-3 anni esclusivamente in inglese, pubblicammo una demo e diciamo un primo album, ovviamente totalmente autoprodotti, e che non è che ebbero grossa distribuzione chiaramente, però andarono via abbastanza bene e erano in inglese. Okay. Poi nell'estate del 2001, se non sbaglio, scrivemmo un pezzo in italiano che girò abbastanza bene, piacque molto, e quindi vabbè, lì dicevamo ok, magari proviamo a continuare, nel senso proviamo a scrivere altri pezzi. E vabbè, abbiamo alla fine poi pubblicato 4-5 album in italiano. E il discorso poi di tornare all'inglese è semplicemente perché avevamo voglia di rimisurarci con la lingua inglese. Ma non è mai stato un qualcosa di deciso a tavolino, per tempistiche o chissà quale altra cosa. Cioè, semplicemente la volontà di fare una cosa piuttosto di un'altra. No, beh, tutto lì. Ci sta alla fine, come magari cantando anche in inglese c'è anche più possibilità di suonare all'estero piuttosto che solo in Italia. Anche, sì, quindi... sì, ma non abbiamo mai fatto questo tipo di calcoli, sinceramente. Okay. Non è che a un certo punto abbiamo detto ok, proviamo a ripubblicare un album in inglese perché almeno andiamo a suonare chissà dove. No. Proprio siamo andati a un certo punto, abbiamo detto abbiamo voglia di riscrivere in inglese. questo ovviamente ha, ci ha, insomma, sono arrivate anche un bel po' di critiche, insomma, e via dicendo, però credo sia andata bene, perché alla fine abbiamo pubblicato altri 4-5 album, secondo me belli, validi, dove francamente non senti la differenza della serie, ah, ma che ne so, l'album è brutto, avrebbero fatto meglio a continuare in italiano, perché si sente che non è il loro percorso, ok, okay. Secondo me ha funzionato. No, bene, bene. Quindi siamo contenti. No. Magari il prossimo sarà in italiano, non lo so. Esatto, alla fine poi dopo è giusto che voi facciate quello che vi piace fare, che sia prodotto in italiano o in inglese, è un discorso. Tanto la base musicale è quella, poi dopo il testo, bene o male, le tematiche che potete andare a toccare, bene o male, sono quelle, però cambia solo un attimo la lingua, c'è giusto... C'è giusto questo leggero cambio, però avete fatto bene anche a fare giustamente quello che vi piace di più fare. Creepy Basement è un altro pezzo che mi hai mandato, quindi prima di lanciarlo anche qui, se hai qualcosa da dire, di qualche curiosità, dimmela pure, che così dopo ce la andiamo a ascoltare. Allora, questo è un pezzo che canta Jay, che è il nostro bassista, e se non sbaglio è la prima volta per... cioè fu la prima volta per lui in studio alla voce, e anche qui fummo abbastanza soddisfatti del risultato, quindi è un bel pezzo, un pezzo che piace molto anche live e ganzo anche da suonare, quindi è bello. Fantastico, dai, va benissimo. Un minutino, siamo rientrati qui con Chicco dei Latte Più, devo ricordarmi di chiamarti Chicco, grazie per questo... per questa concessione, diciamo, comunque, come dicevi, molti ti conoscono per questo, no, con questo nome, quindi giustamente. Ma direi tutti. Tutti ormai. Probabilmente nessuno sapeva che ti chiamavi anche Federico. Vabbè. Così, tanto per dire. Allora, aspetta. Ok, ci sono. Altre curiosità per quanto riguarda il nuovo disco, che così magari se c'è qualcosa che è rimasto fuori di album, di brano, c'è qualche pezzo che è venuto da parte da dover riproporre o qualcosa? È stato un po' un disco per alcuni aspetti anche, direi, delle prime volte, nel senso che ad esempio il fatto di avere una voce diversa, su una voce principale diversa su due o tre pezzi, che è quella di Jay appunto, poi ho avuto anche la possibilità di collaborare con Laura, che è la mia compagna, che venne in studio con me per delle sovraincisioni, per dei cori e delle armonizzazioni, e appunto è stata anche una prima volta per quanto riguarda una voce femminile su un album di Latte Più, e devo dire che, insomma, i risultati sono stati buoni, mi è piaciuto come ha funzionato la situazione. E cos'altro, l'album devo dire che è stato molto divertente da registrare. Siamo stati, come ormai facciamo da alcuni anni, su a Milano al Real Sound da Ettore Gilardoni, che tra l'altro è anche il chitarrista di Crux. Con lui ormai abbiamo un rapporto praticamente stile fratelli, quindi ci troviamo benissimo a registrare. Una cosa molto naturale, tranquilla. E ricordo che ci divertimmo molto, anche se è nato un po' in un modo particolare, cioè è stato registrato in un modo particolare perché ha avuto più sessioni di registrazione. Questo perché, vabbè, uscivamo dal Covid e quindi non fu facilissimo organizzare tutto. Perché di solito noi andiamo in studio, registriamo un album in 3-4 giorni e facciamo festa. Ah, beh. E questo invece è stato un pochino più elaborato, E ad esempio siamo stati appunto a registrare una prima volta, poi una seconda volta, una nuova sessione a distanza di qualche mese. Abbiamo registrato alcune voci, alcune tracce vocali in un altro studio, insomma è stato un attimino più elaborato. Però poi alla fine il risultato è stato più che soddisfacente. Ecco. Ok, ok. E parlando, hai parlato un attimo di Covid, quindi ti chiedo anche una cosa, magari un attimo di quegli anni che abbiamo passato, dove c'è stato un sacco il blocco della musica. Latte Più, adesso magari me lo sono perso io, Latte Più che non si sono spostati sull'acustico per poter andare avanti, o avete fatto anche qualcosa in acustico e me lo sono dimenticato? No, durante quel periodo no, nemmeno successivamente. Diciamo che in questi mesi in cui ci siamo fermati per aspettare Fuccio, era venuta fuori una mezza idea magari di andare un po' a suonare fuori con non so, due chitarre e un paio di voci. Però poi, ecco, non è il nostro, quindi probabilmente non ne saremmo stati nemmeno molto capaci di riprodurre certe situazioni, quindi abbiamo preferito fermarci completamente e aspettare lui, che è la cosa che ci viene molto, molto meglio, ecco, piuttosto che andare a suonare fuori con una chitarra acustica o cose del genere. Ok, ok, no, vabbè, ci sta, perché come avrai visto molte band sono buttate sul discorso acustico per poter andare avanti e poter fare quando c'era il periodo che si poteva suonare, però tutti seduti. Sì, ma c'è stato proposto anche diverse volte di andare, però non è francamente vostro. Non è una cosa che mi piace. Non è il nostro, ecco. No, va benissimo. È giusto per avere anche una tua idea su quello che è successo un po' in quel periodo. Quindi giusto anche piuttosto che stare ad andare a fare una cosa forzata, meglio dici, vabbè, mi fermo, aspetto tempi migliori per andare un attimo a magari a chiudere un attimo il discorso su quello. Anche per rispetto dell'ascoltatore, perché magari non avrebbe sentito un gran lavoro. Quindi va bene, meglio così. Ci sta, meglio per tutti, aspettiamo tempi migliori. Io sono praticamente in dirittura d'arrivo con la puntata di Le Storm Rock, quindi comincio a fare un attimo i ringraziamenti a te, Chicco, per la disponibilità di questa ora passata insieme, quindi grazie e ci vediamo. Grazie a voi, è stato un piacere assolutamente. Però non è finito. C'ho una domanda che mi è stata definita una domanda paraculo, anzi scarica barile. Effettivamente ha un suo termine, come quella iniziale che nessuno scappa, quella dei NoFX attualmente, c'è anche quella finale che è scarica barile nella serie. Io sono praticamente addirittura d'arrivo con il programma, quindi ti vado a chiedere una domanda apertissima, che così se c'è qualcosa che non ho detto me la dici. C'è qualcosa che non ti ho chiesto o che vuoi dire riguardo l'album, band o che altro? Beh, allora, visto che abbiamo parlato del discorso test in italiano, test in inglese, ne approfitto per dire che nel 2024 torneremo in studio a riregistrare alcuni pezzi della band, diciamo dei primi album proprio in italiano, e questo perché tanti pezzi che ci piacciono poi in definitiva non hanno mai avuto grossa giustizia a livello di produzione, a livello di sound, ok? E quindi un'idea che abbiamo sempre avuto da diverso tempo era quella di tornare in studio e ridare proprio un po' una nuova identità, anche se poi non si discosteranno dagli originali, ovviamente. Però per sentire proprio come suonerebbero adesso, con l'esperienza che abbiamo adesso in studio, con le possibilità che abbiamo adesso in studio. E niente, abbiamo in un certo modo annunciato questa cosa, che è stata accolta molto favorevolmente, soprattutto dalle persone che ci seguono da un bel po', e nulla, credo cominceremo a lavorarci, tempi permettendo, da da fine anno, inizio anno nuovo, comunque saranno una dozzina di pezzi dei primi tratti dai primi 3-4 album della band, più possibilmente un paio di inediti. E vedremo un po'. No, bello, bello, bene, quindi sempre al lavoro, sempre al lavoro, ci sta. Sì, perché personalmente è qualcosa che ho sempre voluto fare, il riprendere un po' alcuni pezzi che mi piacciono proprio come canzoni, ma non mi sono mai piaciute a livello di produzione, proprio per niente. E quindi sono sempre stato quello che spingeva un po', tipo, dai, dovremmo rifarlo, vabbè, quando potremo, E ora i tempi sembrerebbero abbastanza giusti, ecco. Ok, vabbè, quindi se in questo album uscite anche infilarci qualche inedito, io tranquillamente vi richiamo, che così possiamo parlare anche di questa, dei pezzi inediti. Assolutamente. E di cosa avete riregistrato in chiave leggermente diversa, quindi magari da qualcuno dall'italiano è stato tradotto in inglese o dall'inglese è stato tradotto in italiano. Te la butto anche lì, magari potreste fare anche questa versione. Volentierissimo, torneremo volentierissimo. Va benissimo, io praticamente, come ti dicevo, sono addirittura d'arrivo, ho a disposizione questo ultimo paio di minuti, che così vado a mettere anche il pezzo di un minuto dei Dead Deck, che così vado a mettere anche una nuova uscita, che sono usciti con il primo album, con The Devil You Know, e ci andiamo a ascoltare When the Rats Come, The Dead Neck, e poi subito attaccato con gli ultimi due pezzi dei Latte Più, My Hearth Belongs to the Ramones e Unbearable, che sono una sorta di decline in short, in versione corta. sì. Io, come ti dicevo, vai, dimmi. No, sono due pezzi, in realtà il pezzo è unico, nel senso uno entra nell'altro, sono due pezzi ben distinti, ma come sentirete filano lisci fino in fondo, non te ne accorgi nemmeno. Va benissimo, Chicco, io ti ringrazio gentilissimo per la disponibilità e vediamo se riusciamo a sentirci anche per il 24 quando uscite con il nuovo disco. Ti ringrazio e ti saluto. Grazie mille a voi, ragazzi, torneremo volentieri, e grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Benissimo, io vado a chiudere la puntata. Buon punk rock a tutti.